Bravo, lunedì. Entusiasmo. Entusiasmo del lunedì, bravo. Mi piace che no, sei. No, mi piace, bisogna forzarselo l'entusiasmo. Cioè, il lunedì o ti impicchi in bagno. Ma no, ma come oppure sei? Oppure ti gasi con delle cose estreme, tipo questa, vedi? Il pubblico, sei, siamo ai park, Drago. Siamo sul palco. Oh, davanti bello. A noi ci sono 300-500 miliardi di persone. Che non pagano. Tutti inglesi, ubriachi. Che bello. Anche tu sei inglese. Allora. Anche tu sei ubriaco. E quindi canti al tuo popolo. Tu adesso suoni la batteria, mi raccomando. Allora, vai. Ok, dammi il tempo. Ok, il pubblico ha già capito dove voglio arrivare. Senti. Dove arrivare? Voglio arrivare sullo Wahoo! Senti, Vedi che hanno capito? Avete capito o no? Sì che hanno capito. Okay. Sì, sono inglese. Adesso io prendo la chitarra. Aspetta che devo controllare i cavi. Tu continua a suonare. Allora. Ma chiama Guido. Che... Più veloce, più veloce. Sempre più veloce, così. Sta zitto e suona. Suona! Ehi! Così! Mica è un cavallo, è una batteria! Yeah! Io la cavallo! Dai, il pubblico ha capito, il pubblico ha capito! Sì, non hai capito tu che devi cominciare! Ma cosa devo cominciare? Con la chitarra! Ma faccio crescere la tensione! Vedi come sono tutti, si gasano, lunedì così, panda alla grande, no? Lunedì! Anche se hai perso dei miliardi in borsa o delle cose tipo da Radio 24, vai con la chitarra, così. Vedi, bravi, sì, lo faccio per voi, lo faccio per voi. Purtroppo però è lunedì. Credo asilo. Non abbiamo più l'età, Drago. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Un saluto da Drago. Parla per te, che hai sempre mal di schiena. Il carapace del lunedì pesa sulle mie spalle. L'ho dimenticato. Il wahoo, ma insomma. Del lunedì. Io sento proprio... tutto il peso della settimana, proprio qui, vedi, sulla cervicale, capisco. Ma anche L4, L5, sì, S1. Però non vedo niente. Vedi, quindi... L1 soprattutto, il sì, primo sacco. Vedo, però appunto. Non Drago, no, non tirare giù i pantaloni perché non c'è niente da vedere, in quanto il tuo è un peso prettamente immaginario. Ma non è vero, perché tu sei materialista, Drago. Figurati, materialista io. Tu non lo vedi, no? Se non lo vedi, tu non ci credi al carapace. Non forza, ci credi. Ma, scusa, ti sembra ma fidati, strano che perché non ci il carapace credo. C'è, Drago. Ma no, ma non c'è. Io lo sento, tutto qui, vedi, guarda. Ma L4, ho capito, L5, ho capito. Però sei solo teso, dovresti farti fare un messaggio, anzi, dovresti farti fare un massaggio cinese. Ma no. Poi vedi che il carapace se ne va. Ma basta aspettare domani, o anche dopodomani, basta aspettare il venerdì. Ah, poi ecco. Il carapace sparisce, perché si presenta puntualmente solo il lunedì. Lunedì, quindi oggi per tutta la puntata te ne stai lì tutto curvo e gobbo. Vorrei vedere te col carapace dietro che... Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Cappa, te lo ricordi Romano Prodi? Sì, un po'. Qualche sì. anno fa, quando era caduto il suo secondo governo, a chi gli chiedeva del suo futuro in politica aveva risposto che finalmente poteva fare il nonno a tempo pieno. E allora? In effetti credo che abbia mantenuto questo suo proposito perché è sparito completamente dalla scena. Per forza. Cioè, fare il nonno a tempo pieno vuol dire che i bambini ce li hai sempre tu, dal mattino alla sera, poi a volte durante i weekend. Insomma, tempo libero non ce n'è. Fai il nonno. È per quello pieno. Allora che invece Vittorio Feltri preferisce l'ipotesi di fare il deputato di centrodestra a quella di fare il nonno. Troppo sbattimento. Di fare il nonno, sì, anche secondo me è troppo sbattimento. Te lo vedi Feltri che cambia i pannolini in bocca ai nipotini e con la pipa? Lui con la solita finezza con la pipa ha detto alla Zanzara che a fare il lavoro che fa adesso guadagna molto bene, mentre a fare il deputato guadagnerebbe una miseria, che lo farebbe solo per dare una mano al partito e per non fare il nonno, per scappare dai nipotini. Fare il nonno guadagna ancora meno, però sicuramente una mano la dai. Quindi secondo me Feltri dovrebbe decidersi per la carriera da nonno. Nonno, va bene. Perché se nonno il suo Feltri. È un desiderio altruistico, allora che faccia il nonno, non c'è niente di meglio. Sì, ma lui non vuole fare il nonno. Convinciamolo. Convincere Feltri è durissimo. Perché? È sempre stato rigido sulle sue posizioni, anche rigido proprio nel sì, rigido. Lui proprio rigido. Sì, in effetti anni fa appoggiava la Lega. Ma cosa c'entra? Il celludurismo e la rigidità vanno di pari passo, ma insomma. Sì, lì, vabbè, ma anche lui come boss ormai ha un'età, no? Argomenti come lì, il celludurismo, la rigidità sono un po' fuori luogo. Perché l'età non conta. Guarda il bambino Fede, lui ha 80 e passa anni, eppure come celludurismo non è secondo nessuno. Diciamo che. No, beh, conta... no, aspetta, è secondo solo a. Ah, beh, a lui. Mica che il bambino Fede scavalchi lui. No, no, no, per carità. Poi lui anche fa fatica, eh. E io sono stremato, capito? Sì, ho capito, sì. Ha capito. E ora bambini, ricreazione! Bambino Alberto, come stai? Way. Cosa sarebbe l'enfasi? L'enfasi, l'enfasi. No, sto benissimo. Stai benissimo. E voi dovreste essere anche fieri. Fieri, fieri? Perché dobbiamo fieri essere fieri di te? Perché? Allora, sono stato selezionato insieme ad altri pochi bambini per un programma avveniristico, una roba tipo astronauti, roba di, capito? Il bambino nello spazio, ma ormai non ci va più nessuno nello spazio, hanno mandato una donna cinese l'altra settimana. Ma no, però. Che spazio, vi dico solo una parola, Avatar. Ah, il film, devi fare la comparsa in no, un remake. No, ma che comparsa, sono il protagonista. Di Avatar. E poi non è mica un film, no? Non è un film. È una sperimentazione, ci sono degli scienziati americani, degli studiosi, che hanno pensato di utilizzare gli Avatar, no? Avatar. Voi sapete cos'è l'Avatar? Sì, no? Vabbè, un personaggio hanno virtuale. Esatto, sì, così. Sì, così. Usare gli Avatar per cosa? Ma allora, praticamente questo Avatar rappresenta un'altra figura, no? E quindi hanno studiato questo programma per aiutare i bambini che soffrono di ansia sociale, no? Ansia sociale. Li aiutano ad affrontare le proprie paure perché li mettono tipo davanti al computer. Escono questi avatar del loro ambiente di vita. Sì. Questo avatar parla al bambino e a seconda di come il bambino reagisce capiscono in che stato si trovano, di ansia, se non è ansioso. Ho capito. Cioè, è una roba seria, è una cosa scientifica. E mi hanno scelto. Ti hanno scelto perché probabilmente soffri di ansia. Cioè, sì, cioè non è, dire, non è una cosa primato. Non è una cosa di cui andare tanto fieri. Che sofferenza. Beh, scusami. Poi bambino. Quale ansia? Allora, adesso solo perché parlo poco o mi sento a disagio in mezzo agli altri. Appunto, ansia sociale. Se alle feste me ne sto in un angolo. Magari mi rivolge la parola o non le rispondo o lo mando a quel paese, no? Ecco, questo secondo te solo per queste piccole quisquiglie minuscole. Io dovrei essere un bambino disadattato. Ma è disadattato, ma non scherziamo, mi hanno scelto perché sono un bambino precoce, evoluto, no? Capito, altro che ansia, cioè, capito, scelto come gli astronauti. Sì, però scusami, questi sono astronauti difettosi. Hai capito? No, che difettoso. Ma sì, perché cosa scelgono invece un bambino che sta bene per verificare le ansie sociali infatti, con gli avatar? Che senso avrebbe? Bisogna avere un bambino con le ansie, sennò non funziona tutta allora, questa cosa. Allora, adesso vi spiego come funziona. Allora, per esempio, nel mio caso, no? L'avatar del computer sono la maestra, la suor dentona, i compagni di classe. Certo, così tu almeno ti abitui a interagire con loro, anche se sono virtuali, in quel modo tu forse superi l'ansia e la paura, giusto? Appunto, per quelli a seconda di come rispondi, si capisce se interagisci, no? Come stai andando? Ho fatto una sola seduta, Com'è andata? Alla grande, allora. Prima di me c'erano due bambini, ma non evoluti, Gli avatar dicevano cose tipo alla bambina: sei la più bella della classe, oppure l'altro bambino: sai che sei uno dei miei bambini preferiti. I due bambini reagivano con entusiasmo, no? Sorridevano, ringraziavano. Cioè, banale alla fine, no? Roba banale. Invece quando tocca a te, cosa è successo? A me è toccato l'avatar della maestra, no? Sì. Che mi ha detto: bambino Alberto, devo dirti una cosa, ma sai che tu sei un bambino speciale, Sei sveglio, arguto, L'ha messa su quel piano lì. Quindi sarei stato contento, no? Ti avrà fatto piacere tutto questo. Allora, io gli ho detto, allora, prima di tutto si faccia gli affari suoi. E se continua a importunarmi la denuncio al telefono azzurro. Ma come? E poi le faccio tagliare le gomme della macchina. Capito? Capito perché dico evoluto? Perché metto la prova alla macchina. Ma scusa, no? Ma la maestra ti fa i complimenti e tu reagisci ma così? Dai. Allora qualche problemino ce l'hai, non da poco. Adesso capisci perché ti hanno scelto, capito? Tu sei il soggetto ideale per testare il programma. Infatti, perché sei... chissà come andare. Speciale, no? Sì. Infatti dopo la mia performance hanno interrotto il programma. Perché questi cosiddetti scienziati non avevano previsto reazione come le mie, no? Ma come no? Ma io praticamente ho trovato il punto debole del programma. Bravo. Dovremmo anche ringraziarmi. Ha trovato il bug. E che cosa ti hanno detto invece? Ah, pensa a te che mi hanno detto. Allora, bambino Alberto, la tua ansia sociale è a un livello tale che ci costringe a rivedere tutti i nostri studi, no? E poi consiglieremmo in via privata ai tuoi genitori di portarti da uno specialista. Ma è un po' che te lo diciamo. In via privata, l'hai detto alla radio. Ma io ho detto, allora, signori scienziati, sì, io sono notoriamente un bambino socievole, equilibrato, ma aggressivo, portato al dialogo. Sì. Perché voi, i vostri avatar, non vedete un po' a fanculo? Cucù, cucù, il aprile non c'è più, è ritornato il maggio del canto. La bella tartaruga che cosa mangerà? Cappa. Chi lo sa? Tuo carapace chi che canta. Lo sa? Chi lo sa? Magari. La lattuga. Tu invece ti mangi tutta quella schifezza dal frigo alle 3 di notte e poi le bilance, Mentolo. Infatti secondo me il gran peso che mi porto addosso in realtà è il carapace. Basterebbe liberarsi di quello e subito la bilancia sarebbe un po' più onesta nei miei confronti. Vuol dire 100,1, ma sei fuori. Filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia, ma venne un incidente, il muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò.